Ad alta voce. Elio De Capitani legge Limonov di Emmanuel Carrer. Traduzione di Francesco Bergamasco. Oltre a scrivere su Telerama, conducevo una trasmissione settimanale per una radio libera. E quando è uscito Diario di un fallito, ho invitato Limonov come ospite. Sono passato a prenderlo in moto. Abitava in un monolocale del Marais, arredato in modo spartano. A terra c'erano dei pesi e sul tavolo, accanto alla macchina per scrivere, un attrezzo a molla per irrobustire i muscoli delle mani. Strizzato in una t-shirt nera, che ne metteva in risalto pettorali e bicipiti, e con i capelli tagliati a spazzola sembrava un parà, ma un parà con un gran paio di occhiali e qualcosa di stranamente infantile nella figura, nel volto, nell'espressione. La foto che accompagnava la mia recensione del diario mostrava Limonov con una cresta di capelli alla moicana, varie spille, tutta una panoplia da punk che doveva risalire al suo arrivo in Francia ed era già passata di moda. E una delle prime cose che mi ha detto è stata che avremmo potuto mettere una foto più recente. Sembrava che quella scelta lo infastidisse davvero. Non ricordo granché della trasmissione. Al termine l'ho riportato a casa. E al momento di lasciarci non gli ho proposto di andare a bere qualcosa, né di rivederci alla prima occasione. Eppure, proprio così, Edouard si era fatto i primi amici a Parigi, molti dei quali erano, come me, giornalisti freelance, conduttori di trasmissioni in radio libere, editori agli esordi. Gente tra i 20 e i 30 anni a cui era piaciuto il suo primo libro e che aveva colto il pretesto di un'intervista per conoscerlo, dopodiché erano andati a bere qualcosa, a cena insieme, erano usciti in gruppo e avevano fatto amicizia. Arrivato da poco a Parigi, Limonov, che non conosceva nessuno e parlava male il francese, aveva chiaramente una gran voglia di incontrare quel genere di persone. E in breve, grazie a Thierry Marignac, Fabien Isartel, Dominique Gauthier e il mio amico Olivier Rubinstein, è entrato a far parte della piccola tribù dei modaioli parigini. Vernissage, cocktail da editori, serate al Palace e poi ai Bain Douche. Io invece non facevo parte di quella tribù, che fingevo di snobbare e che in realtà mi intimidiva. È triste dirlo, ma non sono mai andato al Palace. In seguito ho incontrato Limonov solo qualche volta, di solito alle feste a casa di Olivier. Ci scambiavamo un saluto superficiale, poche parole. Lui esisteva molto per me e io pensavo molto poco per lui. Per questo sono rimasto sbalordito quando, rivedendolo 25 anni dopo a Mosca, si è ricordato perfettamente le circostanze in cui ci eravamo conosciuti. La trasmissione radiofonica e persino la mia moto. Una Honda 125 rossa, vero? Era vero. I primi anni del soggiorno parigino sono stati, penso, i più felici della sua vita. Aveva evitato per un soffio la povertà e l'anonimato. Con la pubblicazione del poeta russo e poi del Diario di un fallito, era diventato una piccola star e in un ambiente che gli piaceva. Non tanto il mondo editoriale e delle riviste letterarie serie, quanto quello dei giovani alla moda, che si sono innamorati subito della sua goffaggine, del suo francese zoppicante e dei suoi discorsi tranquillamente provocatori. Battute crudeli su Solženicyn, brindisi a Stalin, proprio quello che si aveva voglia di sentire in un periodo e in un ambiente che, dopo aver sepolto contemporaneamente la passione politica e le scemenze da fricchettoni, adoravano il cinismo, il disincanto, l'algida frivolezza. Anche nell'abbigliamento, lo stile sovietico incontrava il favore dei post-punk che andavano pazzi per gli occhiali dalla grossa montatura di tartaruga stile Paris Bureau, per i distintivi del Kansamol, le foto di Brezhnev che baciava Honecker sulla bocca, e Limonov è rimasto esterrefatto. E poi si è commosso quando ha visto ai piedi di una giovane stilista ipermodaiola un paio di stivaletti di plastica con bottoni automatici, in tutto e per tutto uguali a quelli che portava sua madre a Kharkov nei primi anni 50. Lui, che tanto si era lamentato di essere abbonato alle categorie C o D, ora poteva permettersi donne di classe A e persino A+, come quella famosa bellezza parigina alla quale ha praticamente infilato la mano nelle mutande durante una cena mondana, perché ora alle cene mondane lo invitavano. Lei e Limonov sono usciti insieme, hanno fatto il giro dei bar e all'alba la donna lo ha portato nel suo elegante appartamento di Saint-Germain-des-Prés. Aveva i seni più belli che lui avesse mai visto. Ma questo è stato soltanto l'inizio della fiaba perché si è scoperto che era una contessa vera, e che a Parigi conosceva tutti. E per di più, era divertente, beveva forte, fumava una sigaretta dopo l'altra, bestemmiava come un turco e quando si sono conosciuti era nubile. Edouard, elevato al rango di amante della stagione, ha fatto grande impressione sulla ristretta cerchia di omosessuali che la attorniava e ha interpretato con soddisfazione di tutti la sua parte di fascinoso delinquente. Questa unione lusinghiera è durata qualche mese. Un piccolo Rastignac avrebbe saputo approfittarne, ma bisogna rendere giustizia a Edouard. Lui non è un piccolo Rastignac. Anche quando vorrebbe esserlo, ha il dono di fare quello che non bisogna fare per affermarsi. Nell'autunno del 1982, invitato a New York dal suo editore americano, perché ora aveva un editore americano, ha conosciuto in un bar dove lei cantava una russa di 25 anni. L'ha portata con sé a Parigi e sistemata nel suo monolocale. La contessa, se ha sofferto per la rottura, non lo ha dato a vedere. Lei e Limonov non si sono più rivisti, perché la russa era gelosa, ma sono rimasti da lontano buoni amici. Natasha Medvedeva, io l'ho soltanto intravista da Olivier Rubinstein, che frequentava abitualmente sia lei che Edouard. Era uno spettacolo, Natasha. Alta, maestosa, le cosce possenti avvolte nelle calze a rete, truccata come un mascherone, secondo Olivier, a cui pure stava simpatica, una incredibile rompicoglioni. Edouard se n'era innamorato pazzo. Della contessa non lo era mai stato. Natasha incarnava il suo ideale di aristocratica. Una ragazza di strada, una spostata, nata come lui nella grigia periferia sovietica e partita alla conquista del vasto mondo, potendo contare soltanto su una bellezza appariscente, una voce da contralto e lo humor brutale di chi cerca di sopravvivere. Erano amanti, e amanti appassionati, ma anche fratello e sorella. E benché Limonov si trovasse a suo agio nella parte del proletario che fa bagnare la contessa, credo che questa fantasia avesse su di lui meno presa di quella della coppia di avventurieri quasi incestuosi, venuti fuori dalla stessa miseria, uniti per la vita e per la morte nella loro lotta contro la malvagità del mondo. Limonov era smanioso di sedurre, ma essenzialmente monogamo. Credeva che ciascuno di noi fosse destinato a conoscere in vita sua un certo numero di persone, che questo numero fosse prestabilito e che una volta esaurite le occasioni, il treno era perso. Aveva abbandonato Anna perché aveva trovato di meglio ed era stato abbandonato da Tania perché lei aveva creduto di trovare di meglio. Natasha sarebbe stata la donna giusta perché lui e lei erano uguali. Due ragazzi perduti che si erano riconosciuti al primo sguardo e non si sarebbero lasciati mai. Nel libro dei morti, Limonov racconta una storia carina, quella della loro visita a Signavsky. Scrittore di talento, dissidente della prima ora, Andrei Signavsky aveva portato a spalla il feretro di Pasternak e dopo un processo celebre quasi come quello di Brodsky, aveva trascorso alcuni anni in Siberia. Era l'archetipo di quei pensatori russi con la barba lunga che, da esuli, parlano soltanto in russo con russi e della Russia. Tutte cose che Edouard disprezzava, e ciò nonostante nutriva dell'affetto per Signavsky, a cui ogni tanto faceva visita nella sua villetta piena di libri a Fontenay-aux-Roses. Edouard trovava commoventi Signavsky e la moglie, con la loro franchezza e la loro ospitalità, e benché avessero pochi anni più di lui, vedeva in loro un padre e una madre. La moglie stava attenta che Andrei Danatovich non bevesse, perché gli faceva male, ma lui, appena era un po' su di giri, diventava sentimentale, pur rimanendo austero, e ti abbracciava dichiarando che ti voleva bene. Il giorno in cui Edoardo ha portato Natasha a casa loro, hanno bevuto tutti insieme tè e poi vodka, mangiato aringhe e cetriolini marinati. Quel posto era un caldo isolotto russo alla periferia di Parigi e Natasha, invitata dalla coppia, ha iniziato a cantare. Romanze, ballate della grande guerra patriottica che parlavano di battaglioni dispersi, soldati caduti al fronte, fidanzate in attesa. Aveva una voce magnifica, roca e profonda, e tutti quelli che l'hanno conosciuta dicono che quando cantava le si vedeva l'anima, né più né meno. Quando è venuto il turno di Fazzoletto Blu, una canzone che nessuno, uomo o donna, nato in Unione Sovietica nel dopoguerra, può ascoltare senza piangere, il momento è stato così intenso, così sconvolgente, che i tre ascoltatori non osavano più guardarsi. Sulla porta, Signarski, con gli occhi ancora rossi di pianto e tirando su con il naso, ha abbracciato Edouard e gli ha detto sottovoce: «Che donna ha, Edouard Veniaminovic, che donna! Deve esserne molto orgoglioso!» Scritturata come cantante al cabaret russo Rasputin, Natasha rincasava tardi e spesso ubriaca. Quando Edouard ha scoperto che in realtà cominciava a bere appena sveglia, è stato costretto a riconoscere che quanto inizialmente aveva scambiato per una grande resistenza all'alcol era di fatto alcolismo. Non è mai una distinzione facile da fare, tantomeno per i russi, ma Edouard la faceva. Era in grado di ingerire in una sera una quantità di alcol spaventosa e poi bere soltanto acqua per 3 settimane. E anche la peggiore sbornia non gli ha mai impedito di essere al tavolo da lavoro alle 7 del mattino. Dice, e io gli credo, di aver fatto tutto quello che poteva per salvare Natasha dal suo demone. L'ha controllata, le ha nascosto le bottiglie e soprattutto le ha ripetuto che quando si ha del talento è un delitto sprecarlo. Ha saputo restituirle abbastanza fiducia in se stessa da permetterle di non toccare un goccio di alcol mentre scriveva un libro sulla propria adolescenza nella periferia di Leningrado, pubblicato da Olivier Rubinstein con il titolo «Mamma a Montepista». La tregua è durata qualche mese, poi Natasha è ricaduta. Nell'alcol, ma non solo. Spariva per 2 o 3 giorni. Divorato dall'angoscia, Edouard vagava per Parigi alla sua ricerca. Telefonava agli amici, agli ospedali, ai commissariati. Alla fine Natasha tornava a casa, stravolta, sudicia, barcollando sui tacchi alti e si buttava sul letto. Edouard doveva sollevare il suo corpo appesantito, già sfiorito, per svestirla. 48 ore dopo, quando si svegliava, Edouard la accudiva come una bambina malata. Le portava un vassoio con il brodo, ma la interrogava anche. E lei rispondeva di non ricordare niente. Zapoi. Alcuni amici comuni gli hanno detto con il maggior tatto possibile che, oltre a bere fino a crollare per strada, Natasha si scopava degli uomini, spesso sconosciuti. Si erano decisi a rivelarglielo perché la cosa poteva essere pericolosa. Natasha ha confessato fra le lacrime. Lo faceva da quando aveva 14 anni. Ogni volta dopo se ne vergognava e giurava a se stessa di non ricominciare, e invece ricominciava. Non poteva farne a meno. Un tempo la parola ninfomania provocava in Edouard associazioni piacevolmente licenziose. Se tutte le ragazze fossero ninfomani, diceva, la vita sulla terra sarebbe più divertente. In realtà la cosa non è affatto divertente. La magnifica, brillante creatura che lui amava, la donna di cui andava tanto fiero e a cui aveva giurato fedeltà e aiuto, era una malata, una delle tante. Ai violenti alterchi seguivano, a letto, appassionate riconciliazioni. Lei singhiozzava, lui la consolava, l'abbracciava, la cullava ripetendole che poteva contare su di lui, che lui non l'avrebbe mai abbandonata, che l'avrebbe salvata. Dopodiché tutto ricominciava come prima. Natasha si difendeva dagli sforzi di Edouard per proteggerla come chi sta affogando colpisce il suo soccorritore e cerca di trascinarlo a fondo. Si sono separati più volte e più volte rimessi insieme, secondo il classico schema: né con te né senza di te. Edouard ambiva a passare dallo stato di scrittore con una certa notorietà a quello di scrittore davvero famoso e sapeva che ciò richiedeva disciplina. Si coricava di rado dopo mezzanotte, si alzava all'alba e ogni giorno, dopo il suo appuntamento con flessioni e pesi, si sedeva alla macchina per scrivere con davanti le sue 5 ore di lavoro. Dopo si considerava libero di andarsene in giro, preferibilmente nei quartieri chic, Saint-Germain-des-Prés o il Faubourg Saint-Honoré, quartieri verso i quali era orgoglioso di aver serbato intatto il proprio odio. Finché sei cattivo, non sei diventato un animale domestico. Con questo ritmo, Edouard ha scritto e pubblicato un libro all'anno per circa 10 anni. Aveva un solo argomento, la propria vita, che vendeva a rate. Dopo la trilogia Edouard in America, il poeta russo preferisce i grandi negri, diario di un fallito, storia di un domestico, è venuto il turno di Edouard giovane delinquente a Kharkov, Eddie Baby Ti Amo, piccola canaglia, e poi dell'infanzia di Edouard sotto Stalin, l'epoca gloriosa, senza contare i racconti in cui è confluito il materiale che non aveva trovato spazio nei romanzi. Erano buoni libri, semplici, diretti, pieni di vita. Gli editori erano felici di pubblicarli, i critici di riceverli e i suoi fedeli lettori, tra cui io, di leggerli. Ma con grande disappunto di Edouard, la cerchia dei lettori non si allargava. Uno dei suoi editori gli ha consigliato, tanto per variare e forse vincere un premio, di scrivere un vero romanzo, meglio ancora se piccante. Edouard si è messo al lavoro con la consueta serietà. Ha scodellato 400 pagine su un esule russo che si fa largo nell'alta società newyorkese, iniziando al sadomasochismo una serie di donne ricche. Ma nonostante i suoi tentativi di destare scandalo, nonostante la copertina di una rivista alla moda che lo raffigurava in smoking, con aria perversa e con 2 ragazze nude ai suoi piedi, il vero romanzo, che si intitolava Oscar e le donne, non ha funzionato. Va detto che era decisamente brutto. Del poeta russo erano state vendute 15.000 copie. Un grande successo per un'opera prima. Ma Limonov si aspettava che il successo continuasse a crescere, e invece no. Si era stabilizzato e stagnava da qualche parte fra le 5 e le 10.000 copie. Le entrate, anche con alcune traduzioni e il versamento sulla fiducia di anticipi superiori all'ammontare reale dei diritti, non valevano un perù. 50-60.000 franchi all'anno, lo stipendio mensile di un dirigente d'azienda. Edouard era di nuovo costretto a passare al setaccio gli scaffali del supermercato di St. Paul, in cerca della roba meno cara, la roba da povero, che aveva mangiato tutta la vita. Una gallina per fare un brodo che durasse a lungo, pasta, vino in bottiglia di plastica, e allorché arrivato alla cassa gli mancavano 2 franchi, doveva restituire un articolo sotto lo sguardo sprezzante dei clienti in coda dietro di lui. Per Edouard scrivere non era mai stato uno scopo in sé, ma l'unico mezzo di cui disponeva per raggiungere il suo vero scopo, fama e ricchezza, soprattutto fama. E dopo 4 o 5 anni a Parigi si è accorto che forse non ci sarebbe riuscito. Forse sarebbe invecchiato nel ruolo di uno scrittore di secondo piano, circondato da una piacevole aura sulfurea, guardato con invidia dai colleghi nei saloni del libro, perché attira le belle ragazze, un po' dark, e perché gli attribuiscono una vita più vivace della loro, ma in realtà abita in un sottotetto, con una cantante alcolizzata, rivolta alle tasche dei vestiti per vedere se può permettersi una fetta di prosciutto, e si chiede angustiato quali ricordi possa ancora mettere insieme per il prossimo libro. Perché la verità è che è arrivato al capolinea. Ha praticamente dato fondo a tutto il suo passato. Non gli rimane che il presente, e il presente è quello. Niente per cui stare allegri. Soprattutto quando viene a sapere che quello stronzo di Brodsky ha appena vinto il premio Nobel. Un giorno Edouard si è ritrovato a un convegno internazionale di scrittori a Budapest, dato che ora lo invitavano a manifestazioni del genere, in compagnia di alcuni grandi umanisti come il polacco Miłosz e la sudafricana Nadine Gordimer. Per la Francia erano presenti il giovane Jean Echenault, biondo, riservato, elegante, e Alain Robbe-Grillet con la moglie. Lui, sardonico e gioviale, dai gesti ampi e la voce profonda, soddisfatto della sua notorietà planetaria, ma come uno studente può esserlo di uno scherzo. Lei, una signora minuta, vivace e allegra, che si diceva organizzasse orge. Entrambi, insomma, simpaticissimi. Per il resto era il solito campionario di giacche di tweed, occhiali a mezzaluna, permanenti azzurrine, pettegolezze editoriali. Non molto diverso da una delegazione dell'Unione degli Scrittori in gita a Sochi. Dopo un lugubre dibattito con alcuni scrittori ungheresi, uno degli organizzatori ha manifestato il proprio compiacimento per il fatto di ospitare intellettuali tanto prestigiosi. A quel punto Edouard ha dichiarato di non essere un intellettuale ma un proletario. È un proletario diffidente, né progressista né sindacalizzato. Un proletario che sa che ai proletari tocca sempre la parte dei cornuti. I Robbe-Grillet ridevano di cuore e Chenault rideva come se pensasse ad altro. Gli ungheresi erano molto abbattuti e per abbatterli ancora di più, Edouard ha rincarato la dose, spiegando che poiché era stato operaio disprezzava gli operai e poiché era stato povero, e lo era ancora, disprezzava i poveri e non dava loro mai neanche un centesimo. Dopo questa uscita se n'è stato tranquillo e nessuno più gli ha chiesto di intervenire. La sera, al bar dell'albergo, Edouard ha dato un pugno in faccia a uno scrittore inglese che aveva parlato male dell'Unione Sovietica. Altri scrittori sono intervenuti a separarli, ma invece di lasciar perdere, Edouard ha cominciato a mulinare pugni come un forsennato ed è stato il caos. Da quanto mi ha raccontato Echenault, nel parapiglia la rispettabile Nadine Gordimer sarebbe stata colpita da uno sgabello. Ma non è questo che volevo raccontare. Quello che volevo raccontare accadde in un pulmino che riaccompagna gli scrittori in albergo dopo l'ennesima tavola rotonda. A un semaforo rosso, un camion militare affianca il pulmino, all'interno del quale si diffonde un brusio di deliziato spavento. L'armata rossa, l'armata rossa! Sovraeccitati, con il naso incollato ai finestrini, tutti i membri di quella comitiva di intellettuali borghesi sono come i bambini al teatro dei burattini quando vedono uscire da dietro le quinte il lupo cattivo. Edouard chiude gli occhi con un sorriso soddisfatto. Il suo paese sa ancora fare paura a quegli occidentali senza palle. Tutto a posto. Gli esuli russi della sua generazione, tutti tranne Solženicyn, erano convinti di non fare ritorno in patria. Convinti che il regime da cui erano fuggiti sarebbe durato, se non secoli, almeno fino a dopo la loro morte. Edouard seguiva quanto stava accadendo in URSS con un certo distacco. Pensava che la sua patria fosse in ibernazione sotto la banchisa, che a lui convenisse starne lontano, ma anche che l'URSS restasse tetra e potente come l'aveva sempre conosciuta. E questo pensiero lo rassicurava. La televisione mostrava sfilate militari sempre uguali davanti a una schiera di vecchi fossili con il petto costellato di decorazioni. Da molto tempo ormai Brezhnev non faceva un passo senza qualcuno che lo sorreggesse. Quando infine è espirato, dopo 18 anni di immobilismo e di premi Lenin per il suo inestimabile contributo teorico alla comprensione del marxismo-leninismo, al suo posto è stato messo Andropov, un cechista che negli ambienti ben informati godeva della reputazione di uomo duro ma intelligente e che in seguito è diventato oggetto di un culto minore fra i conservatori, persuasi che se fosse vissuto più a lungo avrebbe potuto riformare il comunismo invece di distruggerlo. La nomina di Andropov ha più che altro divertito Limonov, che ricordava di averne rimorchiato la figlia 15 anni prima. Ma Andropov è morto dopo poco più di un anno e al suo posto è stato messo il valetudinario Chernenko. Ricordo il titolo di Liberation. L'URSS vi presenta i suoi migliori anziani. Io e i miei amici abbiamo riso, ma non Edouard, che non sopporta le battute sul suo paese. Poi è morto anche Chernenko e al suo posto è stato messo Gorbaciov. Dopo quella processione di mummie che venivano seppellite l'una via l'altra, Gorbaciov è piaciuto a tutti, voglio dire, tutti qui da noi, perché era giovane, camminava da solo, aveva una moglie sorridente ed era chiaro che amava l'Occidente. Con lui ci si poteva intendere. A quel tempo i cremlinologi studiavano attentamente la composizione del Politburo, al cui interno distinguevano liberali e conservatori, con grigie sfumature intermedie. Si capiva benissimo che con Gorbaciov e i suoi consiglieri Yakovlev e Shevardnadze i liberali avevano il vento in poppa, ma anche dai più liberali fra i liberali non ci si aspettava altro che una certa distensione in politica interna ed estera, relazioni corrette con gli Stati Uniti, un po' di buona volontà nelle conferenze internazionali, un po' meno dissidenti negli ospedali psichiatrici. Nessuno poteva immaginare che 6 anni dopo la nomina di Gorbaciov a segretario generale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, il partito stesso non sarebbe più esistito e nemmeno l'Unione Sovietica. E soprattutto non poteva immaginarlo Gorbaciov, apparatchik esemplare e desideroso soltanto, ma questo soltanto era già molto, di riprendere il discorso dal punto in cui l'aveva interrotto Khrushchev 20 anni prima, quando era stato rimosso dall'incarico con l'accusa di volontarismo. Elio De Capitani ha letto Limonov di Emmanuel Carrer, traduzione di Francesco Bergamasco, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, regia di Jonathan Zenti, registrato da Raffaele Stefani presso Fonologie Monzesi, FM Studio, Monza, editato da Raffaele Stefani e Andrea Cerrato, copyright POL Editeur 2011, tutti i diritti riservati.